Noti lunari senza ombra di dubbio, i tuoi gesti più lenti. Noti lunari ci toccano ancora nelle notti più chiare. Così unici, così semplici, accelerati quando sanno di amare, non si fermano mai. Accesi e pieni di vita e di luce, lasciano una scia. Che meraviglia posare il mio sguardo, vedere che ci sei. E la tua assenza, presenza mi inebria su questa terra. Fanno giri segreti addosso gli amanti. Moti lunari tra gli zigomi e gli occhi appena svegliati. Siamo un passaggio di nuvole basse sopra i nostri cuori. Moti lunari senza più direzioni sotto un cielo comune.